Il pescatore intelligente. Molto tempo fa, un pescatore viveva in un villaggio. Andava a pescare ogni giorno al fiume. Ogni giorno ancorava la sua barca vicino alla riva. Anche oggi aveva fatto lo stesso mentre andava in acqua a pescare. Il tempo è così bello oggi. Sarebbe bello catturare un buon pesce. Potrei venderlo al mercato e guadagnare un bel po'. Gettò la rete in acqua, sperando di catturare un po' di pesce. Ma oggi, insieme ai pesci, aveva trovato anche una bottiglia di vetro. Aspetta, questa bottiglia sembra strana. Lasciami aprire e vedere che cosa c'è dentro. Il pescatore tolse la bottiglia dalla rete e la aprì. All'improvviso ne uscì un diavolo. Sono fuori da quella cosa minuscola. Ora diffonderò ancora paura su questa terra. Oddio, chi sei? E come sei entrato in questa bottiglia? Sciocco, io governavo su questa terra. Il fiume era conosciuto come il fiume fantasma. Nessuno si è mai avvicinato a questo posto a causa mia. Ogni essere vivente aveva paura di me. Poi un giorno arrivò un monaco e usò la sua magia per chiudermi in questa bottiglia. Sono rimasto bloccato in questa bottiglia per anni, ma ora sono libero e tu sarai la mia prima preda. Ma perché io? Ti ho liberato io, no? Ma tu sei l'unico che conosce il segreto di questa bottiglia. Ti ucciderò e così seppellirò il mio segreto per sempre. Il pescatore era spaventato per la sua vita. Cominciò a pensare a un modo per salvarsi. Alla fine, pensò ad un piano. Puoi uccidermi, ma ho un ultimo desiderio. Puoi esaudirlo? Va bene, dimmi qual è il tuo desiderio. Mi stavo chiedendo, tu sei davvero grande per entrare in questa piccola bottiglia. Non capisco. Stai mentendo? Puoi mostrarmelo? Pensi che mentirei al riguardo? Te lo mostrerò subito. Nella sua arroganza, il diavolo non pensò neanche per un momento all'errore che stava per commettere. Per mettersi alla prova con il pescatore, si fece piccolo piccolo ed entrò nella bottiglia. Non appena il diavolo fu dentro, il pescatore, sollevato, chiuse la bottiglia. Adesso ridi quanto vuoi. Dovevi uccidermi? Ti ho rimandato al tuo posto. Il pescatore gettò di nuovo quella bottiglia nell'acqua e tornò a riva. Raccolse tutti i suoi pesci e felicemente tornò a casa. È così che il pescatore intelligente ha salvato l'intero villaggio dal diavolo. Quindi, ragazzi, avete visto come usando l'intelligenza il pescatore ha sconfitto il diavolo? Sì, è vero! Questa era davvero una grande storia. Il diavolo ha ottenuto ciò che si meritava. Sì, questa era una grande storia. Così abbiamo imparato che non dobbiamo mai aver paura di fronte ad un problema. Dobbiamo mantenere la calma e pensare ad una soluzione. In questo modo la vittoria sarà sempre nostra. Il pescatore e sua moglie. Un pescatore e sua moglie vivevano su una scogliera vicino al mare. Ogni giorno il pescatore andava sulla scogliera per pescare i pesci per il pranzo. Era felice della sua umile vita, ma sapeva bene che la moglie non lo era. Era sempre arrabbiata. Guarda questa orrenda capanna! L'odore mi fa stare male. La pulisco giorno e notte, ma non basta mai. Il pescatore amava sua moglie, ma lei non la smetteva mai di lamentarsi. Nei bei giorni in cui riusciva a prendere due pesci, la moglie ne chiedeva tre. Quando le portava il mango, lei chiedeva le pesche. Non c'era niente che potesse fare per renderla felice. Oh, cara, cosa posso fare per renderti felice? Portami via da questa puzzolente capanna. Sarò felice. Un giorno il pescatore andò a pescare vicino alla scogliera. L'acqua era calma e blu. Si sedette lì con la sua canna da pesca. Passarono alcune ore e si stancò. Immagino che oggi mangeremo solo frutta. Oh, aspetta! Sento qualcosa! Il marito strinse forte la sua canna da pesca e cominciò a tirare. Oh, com'è pesante! Deve essere davvero grande! Quando ebbe tirato sull'amo, fu sorpreso di vedere una platessa. Era colorata e sgargiante. Oh, una platessa! Come mai è così pesante? Forse ha mangiato troppo? No, pescatore, non è questo il motivo per cui peso più degli altri pesci. Che cosa? Hai appena parlato? È davvero successo? Come fai a sapere il mio nome? So molto più su di te. Non sono un pesce normale, ma un principe incantato. Lasciami stare, che tanto non sono buono da mangiare. Per favore, non uccidermi! Oh, non dire altro! Non ucciderò certo un pesce parlante! Vai, vai via! Ah, grazie! Il marito non vedeva l'ora di raccontare a sua moglie del pesce. Si precipitò a casa, dimenticandosi però di non avere alcun pesce. Tesoro, ho qualcosa da dirti! Corri! Che cosa? Nessun pesce? Oh, no! Avevo preso un pesce, ma mi ha parlato, dicendomi di essere un principe incantato. Che cosa? E poi che è successo? E poi l'ho lasciato andare. Ora è male. Hai catturato un pesce incantato e l'hai lasciato andare così. Perché mai? Siamo poveri e affamati. Viviamo in una capanna che puzza. Avresti potuto chiedere una casa migliore, almeno. Come può darmi una casa? Lui non può farlo. Dobbiamo essere felici con ciò che abbiamo. Sarò felice quando avrò una villetta. Non hai detto che era un principe incantato? Hai risparmiato la sua vita. Lui può fare tanto per te. Torna indietro e chiedi una villetta. Il marito esitante tornò al mare. Con sua sorpresa, l'acqua era diventata un po' verde e gialla. Pesce magico, puoi sentirmi? La platessa venne subito in superficie, come se stesse aspettando il ritorno del pescatore. Mia moglie è infelice. Cosa vuole? Lei vuole una villetta. Torna a casa e vedrai. Il marito tornò e vide che sua moglie era in piedi davanti alla porta di legno di una bellissima villetta, ben tenuta e pulita. Aveva anche i mobili e un camino. Tesoro, guarda! Questa casa è molto più grande e più pulita! Sì, abbiamo anche un camino! È bellissimo, non credi? Sei felice adesso? Possiamo vivere qui per sempre? Per sempre? Poi ne riparleremo. Andiamo a mangiare e poi subito a letto. Quella notte la moglie non riuscì a dormire bene. Continuava a pensare a cosa poteva renderla felice. Si svegliò di buon'ora, aspettando il marito al tavolo da pranzo. Buongiorno, marito. Ascolta, questa casa è piccola per noi. Io voglio un palazzo e voglio essere una regina. Vai dal pesce e chiedili di darci un palazzo. Che cosa? Perché vuoi diventare una regina? Questo è abbastanza per noi. Lascia decidere me. Vai dalla platessa e fammi una regina. Il marito se ne andò esitante verso il mare. L'acqua era viola oggi e il vento era molto forte. Pesce magico, puoi sentirmi? Mia moglie non è felice. Cosa vuole? Lei vuole un palazzo e vuole diventare una regina. Torna a casa e vedrai. quando il marito tornò, la villetta era sparita. Al suo posto c'era un grande palazzo con grandi porte di bronzo. C'erano molti servitori che correvano in qua e in là. Vide sua moglie seduta su un trono. Aveva una corona in testa. Sei una regina adesso. Sì, sono una regina. Questo è bello, non è vero? Non sei felice ora? No. Essere la regina non è abbastanza. Voglio diventare l'imperatrice. E? Cosa? So cosa stai pensando. La platessa non può renderti imperatrice. È impossibile. Non lo puoi sapere? Vai da quel pesce e fammi diventare l'imperatrice. Il pescatore tornò esitante verso il mare. Guardò l'acqua, che era marrone, e si chiese cosa fosse successo. Pesce magico, puoi sentirmi? Mia moglie non è felice. Cosa vuole? Lei vuole diventare un'imperatrice. Torna a casa e vedrai. Il pescatore tornò a casa chiedendosi se sua moglie sarebbe stata felice. Quando raggiunse il palazzo, vide che le porte che prima erano di bronzo adesso erano d'oro. Il palazzo era diventato ancora più grande. Dentro sua moglie sedeva su un trono tutto d'oro. Tutti i ministri e i re erano seduti ai suoi piedi. Aveva una sfera d'oro in una mano e uno scettro in un'altra. Cara, sei davvero un'imperatrice adesso? Sì, lo sono. Non ti avevo detto che il pesce ci sarebbe riuscito? Sì, è vero. Sei felice adesso? Oh, non lo so. Vedremo. Abbiamo avuto una lunga giornata. Dobbiamo andare a dormire. Il pescatore era preoccupato che sua moglie avrebbe fatto un'altra richiesta, ma era stanco per aver corso tutto il giorno. Cadde subito in un sonno profondo. Ma la moglie non riusciva a dormire. Si mise a sedere pensando a cosa potesse renderla felice. Passò una settimana. Ogni notte il pescatore pregava perché sua moglie fosse felice, ma ogni notte la moglie si sedeva sul letto a guardare la luna e le stelle. Finalmente una notte si stancò. Voleva riposare, ma... Che cosa? È già mattina? Come osa sorgere il sole? Non sa che non dormo da una settimana? Marito, svegliati! Voglio poter controllare il sole e la luna. Non voglio che si muovano senza il mio permesso. Voglio diventare l'onnipotente, l'ignoto. Che cosa? Per favore, smettila! Non posso tornare indietro e rischiare le nostre vite. Non rischierai le nostre vite. Io le possederò entrambe. Niente ci toccherà mai. Vai dal pesce e fammi diventare l'onnipotente. No, cara, tu non sai che cosa stai chiedendo. Non ce la faccio più. Se non parti ora, sarò triste. Molto triste. Il pescatore voleva vedere sua moglie felice, ma sapeva che questa richiesta era molto sbagliata. Fuori le nuvole cerchiavano il mare e il vento ruggiva. Oh, quando finirà? È tutto sbagliato. Oggi l'acqua è talmente nera. Sono davvero spaventato. Pesce magico, puoi sentirmi? Pesce, mia moglie non è ancora felice. Cosa vuole? Vuole diventare l'onnipotente, la sconosciuta. Torna a casa e vedrai. Il pescatore tornò di corsa indietro. Oh, non so che fine abbia fatto mia moglie adesso. Devo correre lì. Oh no, cosa? Il pescatore si rese conto che sua moglie era sparita. non si trovava da nessuna parte. Cercò e ricercò, corse di nuovo al mare. L'acqua era calma e limpida. Le nuvole erano sparite e il sole splendeva. Pesce magico! Oh, pesce magico! Per favore, puoi sentirmi? Per favore, torna! Che cosa hai fatto a mia moglie? Ho esaudito il suo desiderio. Lei voleva essere l'onnipotente e sconosciuta. Questo è diventata. Nessuno ha mai visto l'onnipotente. Lei ora è sconosciuta. A tutti. No, per favore, ridammela. Non si annulla un desiderio, pescatore. Aspetta, so che fare. Fino ad ora ho chiesto solo per mia moglie. Hai esaudito i suoi desideri. Ma io sono quello che ti ha salvato la vita. Concedimi un desiderio. Hai ragione. Cosa vuoi? Il pescatore sospirò profondamente. Vorrei che mia moglie fosse felice. Torna indietro, amico. Ha già tutto ciò di cui ha bisogno per essere felice. Il marito si affrettò a tornare a casa. Era sorpreso. Vide sua moglie in piedi davanti alla porta della piccola capanna, ma non era più puzzolente. Corse verso sua moglie. Oh, sei tornata! Sei tornata! Sì, caro. Mi sono resa conto che palazzi e troni non possono comprare la felicità. Andiamo a casa ora. Da quel giorno in poi, il pescatore e sua moglie non ebbero mai fame per un solo giorno. La moglie si era resa conto che la felicità sta nelle cose semplici. E vissero felici e contenti.